America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. This Labor Day weekend, we don't just celebrate the end of summer. We also honor the hard-working men and women who have made this country what it is. Lunedì 1 settembre, Labor Day, la festa del lavoro, America 24 riprende, ci ritroviamo dopo un lungo mese, proprio nel giorno in cui in America si chiude la stagione estiva e si celebra la festa che da noi e in buona parte del mondo si celebra invece il 1 maggio. Un'estate, devo dire, diversa, preoccupante, angosciante, non per la pioggia, il freddo, inusuali anche in America, ma soprattutto per la doppia crisi con cui ci siamo lasciati lo scorso luglio sul fronte ucraino, su quello medio orientale, dove l'orrore continua e ha superato ogni limite. Breaking news tonight. We want to welcome our viewers from around the world to this breaking news coverage. An American journalist has been beheaded by ISIS terrorists. Tutti siamo inorriditi alla notizia della decapitazione di James Foley, il giornalista americano catturato un paio d'anni fa in Siria e ucciso in modo barbarico da un emissario del califfato con riprese video del coltello che gli taglia la testa. È una crisi che è sprofondata rispetto allo scorso luglio, un po' dappertutto, devo dire, perché in Ucraina truppe russe, si parla di migliaia di soldati, mezzi corazzati, hanno varcato i confini per aiutare i ribelli separatisti, violando naturalmente il diritto internazionale. Vladimir Putin continua a negare, poi però incoraggia i ribelli. In un'altra intervista di ieri ha chiesto che le province ricevano autonomia statale. Insomma, sono sfide molto difficili, gravissime, pericolose per tutti, pericolose soprattutto per la stabilità internazionale, per l'ordine internazionale. E in questo contesto Obama sta per partire domani per una delle sue più delicate missioni in Europa, una visita a Tallinn in Estonia, un vertice con i leader locali dei paesi baltici per dargli coraggio, per dargli solidarietà nei confronti di questa minaccia che loro stessi sentono in arrivo da Mosca. Poi Obama andrà a Newport giovedì e venerdì, vicino a Cardiff in Galles, per partecipare a uno dei più importanti vertici NATO degli ultimi 20 anni. C'è già un'agenda, si parlerà di cyberspazio, di un'alleanza comune per combattere gli attacchi contro i computer. E un attacco contro un paese sarà considerato, come la tradizione della NATO, un attacco contro tutti. Però l'agenda ovviamente è cambiata. Al centro del dibattito NATO, Ucraina, Medio Oriente e la nuova missione dell'Alleanza Atlantica dopo la fine delle operazioni militari attesa per il 2014, sia in Afghanistan che in Kosovo. Certo, devo dire che in quest'ultimo mese abbiamo avuto notizie di ogni genere. Incidenti, dimostrazioni a Ferguson per l'uccisione di Michael Brown hanno riportato l'America negli abissi delle tensioni razziali. Ci sarà anche un presidente afroamericano alla Casa Bianca, ma le discriminazioni, il racial profiling nei confronti degli afroamericani restano. E oggi è in programma un blocco delle autostrade intorno a St. Louis, appunto in Missouri, vicino a Ferguson, per 4 minuti e mezzo. È un simbolo delle 4 ore e mezzo in cui il corpo senza vita di Brown, 18 anni, è rimasto per strada. Abbiamo avuto in questo agosto anche delle notizie curiose e nelle news, lo avrete notato, registrato tutti, ha dominato l'Ice Bucket Challenge. Letteralmente è la sfida del secchio con acqua ghiacciata, è una sfida per raccogliere fondi contro la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, una malattia terribile, detta anche morbo di Lou Gehrig, che atrofizza i muscoli fino alla morte. Ve ne parlai tempo fa di questa malattia da un reportage a Detroit, quando feci un'intervista con Eva Feldman, una grande scienziata che sta cercando di combattere il morbo con le cellule staminali. Ebbene, in questa nuova sfida, una sfida diversa, da Bill Gates a Lady Gaga, grandi star di ogni settore hanno raccolto la sfida, rovesciarsi sulla testa un secchio di acqua ghiacciata e chiedere ad altre 3 persone di fare lo stesso entro 24 ore, accompagnando il tutto da una donazione. La raccolta, a ieri si parlava di 94 milioni di dollari. In quest'estate ci sono state anche canzoni, avventure, programmi televisivi, rotture di finanziamenti celebri, nuove coppie nel mondo del cinema, ma soprattutto ha dominato la cronaca della politica internazionale. Let's be clear about ISIL. They have rampaged across cities and villages, killing innocent unarmed civilians in cowardly acts of violence. Ecco, ora che l'estate è finita, resta, come vi dicevo, la crisi. Avete sentito il presidente Barack Obama, da una parte cerca di non cadere nella trappola della provocazione, mantiene la calma, minaccia sanzioni alla Russia, promette giustizia per gli assassini di Foley, e dall'altra è sotto pressione per agire. Il presidente ha già ordinato bombardamenti in Iraq per poter aiutare la liberazione di città curde cadute sotto l'ISIS. L'ISIS è il termine che definisce i ribelli fondamentalisti islamici, e per liberare importanti luoghi strategici, una diga ad esempio, centrali per l'estrazione del petrolio cadute nelle mani di terroristi che hanno fondato questo vero e proprio califfato all'interno di Iraq e Siria. Il problema di fondo, il mondo arabo resta diviso. Ecco, questo problema della divisione del mondo arabo preoccupa addirittura di più del conflitto fra palestinesi e israeliani. I sunniti sono contro gli sciiti, i sauditi quindi sono contro l'Iran, il Qatar è contro l'Egitto. Insomma, c'è una divisione che preoccupa molto. Questi argomenti saranno al centro del vertice, importante perché darà un segnale alla Russia. Si resta vigili. A quel vertice saranno 60 paesi, anche se solo 28 sono membri effettivi della NATO, e la Russia si troverà sempre più isolata. Ma di tutto questo continueremo a parlare nei prossimi giorni, da Tallinn, dal Galles, dove seguirò il presidente Obama. Intanto, per chiudere con quest'ultima giornata dell'estate, vi racconto di un incontro sui prati di una villa magnifica. Si parlava di politica internazionale con grandi esperti come Strobe Talbot, Martin Indyk. Il pubblico era fatto di americani, la maggioranza stramiliardari e, devo dire, preoccupatissimi. Comunque sia, l'America chiude la pagina di quest'estate 2014 sotto il segnale dell'angoscia per la propria impotenza a difendere un ordine essenziale nel post-guerra fredda. Ma forse qualcuno, Putin prima di tutti, ha interesse che si continui a guardare indietro, e l'America, dietro i falò in spiaggia, le musiche, i balli, resta profondamente angosciata. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Oggi, ve l'ho detto, in America festa del lavoro, è il giorno che chiude formalmente l'estate, si ricomincia a lavorare, riaprono le scuole, e in questo spirito voglio proporvi dei The Doors, Summer's Almost Gone, l'estate se n'è quasi andata. And we swam the laughing sea. When summer's gone, where will we be? Where will we be? Where will we be? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.